Sentiamo René. René, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Radio Ascoltatori. No, volevo dire la mia per quanto concerne questi provini, soprattutto sullo zecchino d'oro. Io sto a Milano. Anni fa, quando mio figlio, adesso 31enne, si dilettava a cantare, aveva vinto 3 festival a fila, insomma, era un bambino abbastanza precoce, Lei ecco, stava investendo però su a suo livello di canto. figlio. Lei stava investendo. Ha fatto 3 festival, l'avrà Sì. portato, l'avrà fatto studiare, ci sperava. No, poi ho avuto un invito per lo Zecchino d'Oro, ha fatto un provino a Milano e intanto ci hanno rifilato una enciclopedia, è un classico, no? Quello però, guardi, lo so perché, ahimè, nella mia indigenza precoce ho fatto anche il venditore di enciclopedie. Quelle sono delle associazioni parallele che, fingendo di fare casting per lo zecchino, poi prendono le mamme e gli rifila l'enciclopedia. È un Eh sì. escamotage Però come tanti altri. roba anni 70, è roba vecchia, ancora dura. Sì, comunque mio figlio praticamente ha sostenuto il provino, dopodiché, dopo qualche giorno, ci è arrivata una lettera dove diceva che non era idoneo al canto. Ma lei, Cioè, è un guardi, purtroppo paradosso. è finita in una di quei vicoli ciechi. Lo Sì. scopo di chiamarla in quel cinema, fargli vedere un filmettino e a metà fra un tempo e l'altro vendere l'enciclopedia, era di vendere l'enciclopedia. Probabilmente nemmeno avevano nessun contatto con lo zecchino d'oro. Purtroppo è capitato male. Io penso le selezioni le facciano i frati dell'Antoniano, adesso non so come funzioni bene e non so se augurare più quelle o più l'enciclopedia. Comunque, le è andata male.